vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 26 aprile, il sole in regione sorto alle 6.01 e tramonterà alle 20.10. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. I contraccolpi della pandemia da coronavirus non stanno risparmiando neppure il mondo dei cavalli, del turismo equestre, con i centri deserti e i bilanci sempre più in rosso. Come se non bastasse, la siccità sta facendo lievitare il prezzo del fieno. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare alla burocrazia che si accanisce con norme non sempre intellegibili sul regime delle rotazioni agrarie e dei sovesci. La rubrica del vino si occupa invece ancora di Medioevo e di come si iniziò ad attribuirgli una variegata serie di valenze anche sociali. A seguire lo spazio che dedichiamo alle piante, oggi con la flessuosa e saggia Betulla, per passare al mondo del porco e alla varietà degli insaccati, veri presidi di tradizione. I rusclinso, pungitopo, asparago selvatico sono ottimi anche in cucina, oggi declinati in una ricetta del mitico Gianni Cosetti, cui seguirà l'andamento dei mercati agrari, le previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Vita nei Campi ha preso a cuore una situazione di estrema difficoltà che vede coinvolti in questi giorni i cavalli dei centri equestri, anche nella nostra regione. Cavalli strategici per il movimento del turismo equestre e turismo lento che integra l'offerta sul territorio. Cavalli ridotti, possiamo dire, quasi alla fame, nonostante gli sforzi dei gestori dei maneggi per garantire loro sempre da mangiare. Ne parliamo con Alessio Sauroni, commissario per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale del Turismo Equestre. Qual è la situazione sul territorio? Quanti centri, quanti cavalli? Abbiamo un centinaio di centri tra le varie federazioni e enti di promozione sportiva. Possiamo calcolare su una ventina di cavalli al centro, circa 2.000 cavalli. Qual è la difficoltà di questi giorni? Nasce dal fatto che non lavorano le scuole di equitazione e non lavora il turismo equestre. I cavalli sono fermi e non ci sono entrate per i centri. Quindi c'è la difficoltà a reperire il cibo? Non c'è solo il cibo, ma ci sono anche le spese per l'affitto, ci sono le spese per l'energia elettrica, per l'acqua, per le ferrature, per l'eventuale veterinario. Non c'è nessuna provvidenza finora? La FISE in questo momento, non avendo in programma delle gare, ha devoluto i soldi per l'organizzazione di queste gare che non verranno appunto fatte per comprare del mangime per i centri che sono affiliati alla FISE. Un cavallo in una situazione come questa quanto può mangiare? Come viene alimentato? Sicuramente non da cavallo sportivo in questi giorni. Viene alimentato quasi esclusivamente a fieno, con un po' di fiocato che fa da integratore. In media giornaliera un cavallo di media stazza si alimenta dai 10 ai 15 kg di fieno al giorno e sui 3 kg di fioccato. E c'è difficoltà anche a trovare fieno, la stagione non è delle migliori. Quest'anno la stagione non ci aiuta per niente, il primo taglio non è stato fatto quasi in nessun posto, troppo secco, di conseguenza fieno non c'è. Tra l'altro tanti centri si fornivano in Slovenia, però anche la Slovenia adesso è chiusa. Quindi che fare? Io vorrei lanciare un appello, se si può, al nostro governatore, al nostro presidente di regione, che ci faccia aprire il prima possibile, anche perché l'equitazione sia in campagna sia in cavallerizza viene fatta con distanze molto regolari, per cui con le giuste protezioni e le giuste precauzioni, secondo me è una cosa che potrebbe ripartire subito. Adesso non voglio fare comparazioni, ma la vicina Slovenia ha già aperto tutti gli sport all'aria aperta. E per la vita dei centri? Bisognerebbe che vengano messi dei fondi da parte della regione o del CONI, dello Stato, e anche dei finanziamenti, ma che siano chiari e che si possano avere. C'è molta confusione sotto il cielo delle rotazioni in agricoltura, con decreti che si rincorrono e non sempre sono scritti con la proprietà di linguaggio che sarebbe necessaria, come ci fa notare Cristina Micheloni, che ci cura la rubrica del bio. Che la rotazione delle colture sia strumento imprescindibile per fare seriamente agricoltura bio non credo sia in discussione. Come altrimenti si potrebbero gestire fertilità del suolo, malerbe, patogeni, parassiti, imprevisti climatici, acqua, nel tanto e nel poco, ma anche le incertezze di mercato che rendono sempre più consigliabile la differenziazione. Dal 2009 in Italia era in vigore un decreto che dava onestamente modo di lavorare agli agricoltori bio, coniugando il rispetto dei principi agronomici con la pragmaticità. Poi, dal 2018, senza che nessuno ne sentisse il bisogno, il MIPAF è uscito con una revisione del decreto che ha creato talmente tanti problemi e scontento che da subito ne è stata annunciata l'immediata revisione, rettifica, interpretazione, insomma qualcosa che rimettesse gli agricoltori in grado di lavorare. Il senso di immediata però pare interpretabile, già che dal 2018 la nuova versione del decreto è stata firmata solo alla vigilia di Pasqua di quest'anno e non è nemmeno pubblicata ancora. Tuttavia, dopo una così lunga fase di incertezze e di attesa costellata da ripetuti annunci, è una boccata di ossigeno. Un'altra stagione di semine con il precedente decreto in vigore e l'indefinita situazione creatasi sarebbe stato insostenibile. Quindi, la prima cosa positiva del decreto è che c'è. Seconda cosa importante è che ai sovesci viene nuovamente riconosciuto un ruolo cardine. In sintesi, il decreto definisce le caratteristiche di minima, ripeto, di minima delle rotazioni. Una stessa coltura non può tornare sullo stesso terreno se non dopo almeno due colture principali diverse, di cui una sia una leguminosa, oppure un sovescio con delle leguminose che arrivi fino alla fioritura, oppure ancora un maggese di almeno 6 mesi. Ecco, 6 mesi di maggese, ovvero il terreno lasciato nudo e lavorato per controllare le malerbe, è qualcosa di difficile da sostenere dal punto di vista scientifico ma anche pratico, ed è anacronistico. Ora infatti che anche l'agricoltura convenzionale si sta interrogando su come tenere i terreni coperti per la maggior parte dell'anno, per motivi climatici, di perdita di fertilità, di scarsità d'acqua, ma perché mai dovremmo invece accettarlo in bio? Ci sono altri punti in cui il decreto mostra i suoi limiti di comprensione del sistema del bio. I sovesci si fanno per mille ottime ragioni, non solo per apportare azoto, quindi rendere obbligatorie, anche se solo in parte, le leguminose nella loro composizione è perlomeno miope. Le seconde colture, soia nel nostro caso, miglio, grano saraceno, eccetera, non vengono nemmeno considerate, eppure il loro ruolo nel tenere coperto il terreno, ed anche in modo smart, è conclamato. Le consociazioni, in tutte le loro forme, non hanno spazio, eppure sono proprio in questi anni un punto di notevole innovazione dei sistemi agronomici. Penultima questione, la controllabilità delle norme. Un esempio, che senso ha richiedere che la coltura da sovescio debba raggiungere la fioritura? Ma chi lo andrà ragionevolmente a controllare? Ultima questione, la lingua italiana. Il fatto che un sovescio debba essere sovesciato, cito testualmente, al di là della cacofonia, significa che non può essere altrimenti terminato? Ad esempio, tutte le forme di sfibratura, trinciatura che lo trasformano in pacciamatura viva non vanno bene? Tutti i termini non corretti e tecnicamente imprecisi lasciano spazio a interpretazione e incertezze, e non è proprio quello che ci serve. Il vino nel Medioevo inizia a differenziarsi non solo per qualità ma anche per le valenze sociali che gli vengono attribuite. È l'argomento di oggi della rubrica che ci cura il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine. Iniziamo con una citazione di Ippocrate. Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Quindi una stretta correlazione tra vino e alimentazione e chiaramente medicina. Galeno divide praticamente il corpo in 4 umori e a seconda, diciamo, degli stati d'animo ci doveva chiaramente associare anche un'alimentazione e un vino. In pratica, diceva questa scuola medica, che il vino bianco era da preferire rispetto al nero considerato troppo forte. Pertanto le classi nobili borghesi che non svolgevano lavori pesanti dovevano bere solo vini bianchi, rosatelli e anche dolci, mentre il popolo lavoratore vini più corposi e i rossi, diciamo, importanti erano in qualche modo utilizzati come medicamento. Vino rosso fa buon sangue. Nel corso del Medioevo era difficile nutrirsi. Il popolo, gli agricoltori, un solo pasto al giorno, vino di vinaccia, posca, e vino buono eventualmente in osteria. Mentre la classe abbiente ostentava il cibo come dimostrazione della propria potenza, e quindi pasti 3 volte al giorno, vini che provenivano anche da aree lontane da quella di consumo, i monaci bevevano vini schietti, potremmo dire, ma anche vini aromatizzati con piante officinali e anche addirittura prodotti in ricette particolari per particolari occasioni. Un'altra fonte importante di domanda era la fonte medicinale, che era gestita in parte dai monaci e dai cavalieri ospedalieri. Fino, diciamo, alla seconda metà del 200 si seguivano le ispirazioni di Ippocrate e le indicazioni di Galeno. Soltanto un medico catalano, Armando de Villanueva, scrive un libro, il Liber de Vinis, che ha chiaramente una funzione fondamentale nel cambiare l'approccio, diciamo, medico nel tardo medioevo. Praticamente lui dà tutta l'indicazione, diciamo, di ricette, di medicamenti a base di vino, e tra cui inserisce anche come ingrediente l'acquavite di vino, quindi l'alcol concentrato. Oggi Antonino Daneluto ci parla della flessuosa betulla che, tra le innumerevoli caratteristiche, anche quella fin dai tempi antichi di essere considerata simbolo di saggezza. Uno degli alberi più facilmente riconoscibile grazie alla sua corteccia bianca è la betulla, abbastanza comune nei boschi umidi e nei cespuglietti subalpini della nostra regione. Il suo nome scientifico è Betula pendula, quelli friulani Bedoi o Badoi. Ha portamento eretto e può superare i 20 metri di altezza. Il tronco ed i rami più grossi sono rivestiti da una scorza bianca, sottile e liscia, che si desquama trasversalmente. I rametti sono esili, flessuosi, per lo più pendenti. Le foglie hanno un lungo picciolo, sono triangolari, rombiche, acuminate, con margine seghettato. Essendo pianta monoica, sullo stesso individuo i fiori maschili sono distinti dai femminili e compaiono in aprile-maggio. I maschili si presentano in amenti penduli, solitamente appaiati. I femminili, molto più brevi, sono invece solitari. Il frutto, minuscolo, ha un involucro legnoso che avviluppa il seme dotato di due ali laterali membranacee che ne favoriscono la disseminazione ad opera del vento. In fitoterapia trovano impiego le foglie raccolte in aprile-giugno. Sono utili negli stati reumatici e gottosi, sono diuretiche e depurative, fluidificano la secrezione biliare e sono coadiuvanti nel trattamento della cellulite. Per uso esterno combattono la forfora e la caduta dei capelli. Anche le gemme primaverili possiedono le stesse proprietà. In primavera, prima della comparsa delle foglie, da un ramo reciso possono sgorgare 4-5 litri di linfa al giorno. La linfa, deliziosa bevanda salutare, è considerata depurativa e imbottigliata diventa spumante con gusto vinoso, la cui eventuale acidità si corregge con l'aggiunta di zucchero. Se non si vuole che fermenti, basta aggiungere 4-5 chiodi di garofano per ogni litro di linfa. Dal legno si ottiene il carbone vegetale che, finemente polverizzato, svolge nell'intestino un'azione assorbente e antiputrida. Invece, per distillazione secca, si ricava il catrame di betulla, liquido denso, dal sapore acre e bruciante, antisettico delle vie respiratorie. Il legno della betulla è adatto per mobili, compensati e lavori al tornio. La corteccia serve per fare scatole. Fin dai tempi antichi questa pianta viene considerata simbolo di saggezza. Essendo una delle prime a risvegliarsi dal sonno invernale, è ritenuta pianta sacra della rinascita e della fertilità. Adriano Del Fabbro continua il suo viaggio nel mondo del maiale e dei suoi prodotti, incontrando gli insaccati principali, veri simboli di tradizione dei territori. Quasi ogni paese possiede il suo salame speciale. La salsiccia era fatta con la carne delle coste basse, lardo, sale, spezie e vino. Infilate in piccoli budelli, erano tra i primi insaccati a essere consumati in svariati modi, rosolate nel burro o nel latte, cotte alla griglia, abbinate a patate, polenta, pane o verdure diverse. Per il confezionamento del muset si utilizzavano i muscoletti interni teneri, la cotenna, il lardo, i nervetti, il muso, le orecchie, la coda e i resti eventuali della precedente lavorazione della salsiccia. A essi si aggiungeva il sale e le spezie, insaccando il tutto in un budello di manzo di media grandezza. Poteva essere conservato per circa 30 giorni ed era consumato preferibilmente con la brovada o le patate. I polmoni, l'esofago, i reni e il cuore finivano nella polmonaria. Dopo l'aggiunta delle spezie, il macinato veniva insaccato in un budello di maiale. Veniva consumata lessa entro 15 giorni, assieme al purè o alle patate lesse. La lingua lessa, miscelata alle spezie, con un po' di macinato del muset e insaccata, diventava il linguale. Veniva tradizionalmente consumato nel giorno dell'ascensione, con il purè o i piselli. Con una pasta simile, inserita nel budello gentile, nel pordenonese, confezionavano la bondiola. A parte la testa del suino lavorata completa, bollita in acqua aromatizzata e quindi insaccata, speziata e ancora calda, diventava la coppa di testa. Diffusa soprattutto nei territori montani di Moggio Udinese, Resiuta e Chiusaforte, si consumava dopo solo 4-5 giorni di stagionatura con polenta o pane caldi. Il salame era fatto con la carne più pregiata del maiale, spezie e pezzi di lardo e insaccato nelle budella di manzo o di maiale. Veniva consumato fresco, cotto sulla piastra o con l'aceto o nel latte, ad esempio a Bordano, o stagionato a fette dopo almeno 60 giorni di maturazione nel camarin. Le soppresse, salami grossi, erano fatte con la stessa pasta del salame ma consumate affettate dopo almeno 7-8 mesi di stagionatura, dopo la luna d'agosto, si diceva, la vendemmia. Meglio se i mesi di maturazione erano 12. Gli spazzacamini li usavano per pulire le canne fumarie, in cantina erano posti alle estremità delle stanghe dove si appendevano i salami per tenere lontani ospiti indesiderati. In cucina sono una leccornia, come ci dice Roberto Zottar, che dedica questa puntata ai Rusclins. Gli asparagi selvatici sono squisiti e fanno bene, tanto che in Istria si dice «no geserba che varda in su che no gabi la sua virtù» e sono anche depurativi, infatti i sparusi e i bruschi candoli, ise del sangue e meglio santoli. La raccolta degli sparusi, o come dicono coleser sparusi, comincia a inizio marzo quando copassa i masori si scomincia a catare sparusi, e un altro detto fissa il passaggio delle anite selvatiche dei germani reali, con la fine di febbraio il masoro fa il suo passaio, e certamente con l'avanzare della primavera gli asparagi migliorano, cofiorissi la zenestra e sparasi se boni più che la menestra, per arrivare poi in aprile al trionfo della produzione con april spareser, maio sareser, cioè aprile sparagioso e maggio ciliegioso. Stiamo parlando di turioni selvatici come l'asparago di bosco o sparesine, cioè asparagus acutifolius, molto aromatico usato per frittate o gustato in insalata, o l'asparago selvatico o tenuifolius, e l'asparago marittimo, detto anche sparx di palut. Asparagi tanto lunghi e sottili da dire longo come un spariso o sutila come un spariso, ma anche molto delicati, ovvero delicat come sparx di montagne. Molte altre piante selvatiche, soprattutto per il loro aspetto, vengono impropriamente chiamate asparagi nel lessico popolare, ma appartengono a specie diverse. Sono molto usate in cucina soprattutto per la loro personalità e per il sapore amarognolo, sentore che si discosta decisamente anche in intensità da quello dell'asparago officinalis bianco. Sto parlando dello sparc di Mont, cioè l'Auruncus dioicus o barba di capre, di cui si usano i germogli primaverili rossastri, della Clematis vitalba, in friulano Pontis di Blaudin o Glaudinar, o del luppolo selvatico, Lumulus lupulus, cioè i bruscandoli o urtichons. È molto usato in cucina anche il comune pungitopo, cioè il ruscli o russul friulano, ossia il ruscus aculeatus, pianta tipica degli spazzacamini che si raccoglie tra le siepi di montagna saporito e molto amaro, i cui giovani germogli vengono lessati e conditi con olio e aceto. Ricordo oggi una ricetta in purezza molto semplice del mitico Gianni Cosetti. Mondate e lavate i germogli di pungitopo, tagliateli a pezzettini di 1-2 cm, quindi fateli bollire in una casseruola per 40 minuti in vino e aceto in uguali proporzioni e un pizzico di sale. Scolateli, asciugateli, poneteli in un vaso a chiusura ermetica, ricoperti di olio extravergine di oliva con alcuni grani di pepe e due chiodi di garofano e conservate in frigorifero. Sono ottimi da gustare con gli affettati. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Mais con umidità 14%, è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 36,80 e 37,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,90 e 16,40, il frumento tra 19,70 e 20 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 20 centesimi e la soia di 4,40 euro al quintale. Mercato ancora in difficoltà nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima ottima qualità pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,40 e 2,20. Resta pesante anche il quadro congiunturale nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 5,60 e 6 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 3,80 e 4,30, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze pure in calo nel comparto suinicolo, con il valore della tondola di 30 kg franco partenza fissato a 3,33 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,15. Per quanto riguarda il prezzo del latte alla stalla, la commissione della Camera di Commercio si riunirà la prossima settimana. Infine, andamento con scambi a rallentatore nel mercato degli aviconicoli, rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i polli a terra vengono pagati tra 1,21 e 1,23 euro il chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,44, le anatre tra 2,31 e 2,33, le faraone tra 2,21 e 2,23, i conigli oltre 2,5 kg tra 1,77 e 1,83, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 18 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Una siccità primaverile di 50 giorni in Friuli Venezia Giulia è un evento più unico che raro, ma ormai quest'anno è dal 6 marzo che sulla nostra regione praticamente non piove in modo significativo, a fronte di piogge medie attese nel periodo di 250-300 mm. A Udine se ne sono misurati solo 4. Le esigenze idriche delle colture, seppur non elevate come durante l'estate, sono comunque importanti, in particolare per quelle invernali da pieno campo come orzo, frumento e colza. In questo periodo di 50 giorni le richieste irrigue sono stimabili intorno agli 80-100 mm. Anche i fruttiferi, seppur con esigenze idriche meno pronunciate, in una fase delicata come la fioritura e la legagione stanno soffrendo, così pure la vite e l'attinidia in germogliamento risentono molto di questa situazione di deficit idrico. Ad accentuare la siccità hanno contribuito anche le innumerevoli giornate serene labora, che ha soffiato frequentemente rendendo l'aria molto secca. L'evapotraspirazione è stata quindi piuttosto elevata. L'aprile più caldo e più secco in regione degli ultimi 30 anni è quello del 2007, ma un confronto con questo lo potremo fare solo tra qualche giorno. Ma qualcosa sta cambiando, l'anticiclone e le correnti secche hanno lasciato posto da poche ore a correnti occidentali più umide, ma sarà solo a metà settimana e quindi proprio a fine mese che fronti atlantici con aria umida ed instabile proveniente da sud-ovest faranno aumentare la probabilità e la consistenza delle piogge. Domani e martedì quindi avremo cielo da poco nuvoloso lungo la costa a nuvoloso coperto sui monti, dove si avranno piogge sparse, deboli o moderate e forse qualche temporale pomeridiano. In seguito, da martedì sera e fino a venerdì 1 maggio, si avrà, come anticipato, l'afflusso di correnti più umide ed instabili che dovrebbero portare piogge più abbondanti sui monti. Ma piogge si avranno anche sulle zone pianeggianti, in genere moderate, localmente anche temporalesche e più consistenti. Come sempre, ma a maggior ragione, in questo periodo, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che l'Osmer ARPA elabora quotidianamente e che vengono diffuse anche dai vari notiziari regionali della RAI. Termina qui la puntata. Oggi tornano i proverbi friulani dedicati al tempo e al calendario. San Marco e San Giorgio e le ore di Metilsorc. A San Marco 25 aprile, a San Giorgio il 23 aprile è ora di seminare il grano turco, qui per ragioni di rima, Sorc. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.